Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. In cima alle colline sopra la città di La Spezia si sente l'odore forte del mare e si scorgono quelle navi militari e civili che entrano ed escono dal porto ogni giorno, ad ogni ora, così frenetiche e al contempo lente. Dalle colline puoi osservare la bellezza del Golfo dei Poeti di Porto Venere, dell'isola di Palmaria. Le case che stanno laggiù dall'altra parte della baia sembrano punti rossi lontani e i lievi pendii che vanno dalle Cinque Terre fino all'ultima propaggine del promontorio dimostrano la bellezza di un luogo unico che sa di magia. E ci sono paesi dalle case colorate che si mischiano con l'azzurro del cielo e il blu intenso del mare. Lerici, San Terenzo, Tellaro, Fiascherino, Fezzano, Le Grazie, il Tino e il Tinetto, fino a spingersi a Monte Marcello e a Punta Corvo. Una zona esposta ai soli venti di scirocco e parzialmente di tramontana ed è invece riparata da quelli più potenti di libeccio. Così il mare è quasi mai agitato e sempre tranquillo per tutto l'anno. Il Golfo di La Spezia è conosciuto anche come il Golfo dei Poeti. Così lo definisce il commediografo Sam Benelli. Nella sua bella villa affacciata sul mare di San Terenzo scrive e concepisce il suo capolavoro, La cena delle beffe. Non è la vita un gioco con la morte? Vedi come son fatto. Più ne tremo e più mi piace il gioco. Deformato mi sono col terrore, come stelo nell'ombra. Più s'affina e più s'ostina. In questa giostra io sento ora la vita raccogliersi in un nodo di terrore, più tenace de serpi di Medusa. Io voglio che il perfido Neri a me si raccomandi per pietà, che mi sorrida come si sorride ad un pari, non disdegnosamente. Io lo voglio con furore, altrimenti il mio nodo di terrore lo può strozzare disperatamente. Dunque, il 30 agosto del 1910, Sam Benelli si trova a San Terenzo durante l'orazione funebre per Paolo Mantegazza. Beato te, o poeta dell'assenza, che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori di questo golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà degnamente le ombre dei grandi visitatori. Ma Sam Benelli non è l'unico intellettuale a varcare i confini marittimi e terrestri del Golfo. Nel corso dei secoli molti altri poeti, scrittori e artisti hanno trascorso periodi di residenza in questi borghi, folgorati dalla grandezza di questo anfiteatro d'acqua, proprio come Dante. Un primo riferimento lo si trova nel canto 24 dell'Inferno, ai versi 144-147, dove il poeta allude alla presa di Pistoia da parte di Moroello Malaspina, signore della Lunigiana. Tragge Marte vapor di Val di Magra, che di torbidi nuvoli involuto e con tempesta impetuosa e agra. Un altro riferimento è presente nel terzo canto del Purgatorio, pagina 49 e 51, in cui Dante e Virgilio giungono a piedi di un monte. Dante paragona la ripidità della montagna alla strada più impraticabile tra Lerici e Turbia, che apparirebbe un'agevole scala rispetto alla prima. Tra Lerici e Turbia, la più deserta, la più rotta ruina, è una scala. Verso di quella, agevole e aperta. E sui territori circostanti. Cominciò ella, di Val di Magra o di parte vicina sei. Dillo a me, che già grande la era. Da questi riferimenti si può dedurre che Dante rimane a tal punto affascinato dal Golfo dei Poeti da citarlo e ricordarlo in vari momenti della sua opera, sia per gli avvenimenti a cui prende parte, sia per il suo aspetto caratteristico e indimenticabile. Fra i tanti artisti che amano questo luogo c'è il poeta Lord Byron. Passa radiosa come la notte tersa dai cieli stellati. Il meglio del buio, del fulgore, si incontra nei suoi occhi, addolciti a quella tenera luce che il cielo nega allo sforzo del giorno. Un'ombra in più, un raggio in meno, avrebbero in parte guastato la grazia senza nome che si posa sui capelli neri o illumina il volto con dolcezza, dove pensieri limpidi svelano pura e preziosa dimora. su quella guancia, sopra quella fronte serena. Sorrisi e colori parlano di pacifici giorni, di un intelletto in armonia con tutto, di un cuore che ama innocente. La leggendaria traversata di Lord Byron nel 1822 da Porto Venere a Lerici per raggiungere Villa Magna a San Terenzo fa parte delle tradizioni del Golfo. A Porto Venere invece la grotta Arpaia viene denominata Byron e una lapide ricorda il falso storico della sua presenza tra questi scogli. Byron si ferma infatti a Lerici per una febbre mentre da Genova avrebbe dovuto raggiungere la Grecia. Nella sua traversata, Byron intende raggiungere lo scrittore Percy Shelley, la cui sua ultima residenza era proprio nel borgo di San Terenzo, borgata Marinara nel comune di Lerici. L'8 luglio del 1822 Shelley annega in una tempesta improvvisamente a bordo della sua nuova goletta, l'Ariel, naviga proprio verso San Terenzo. Apprezzano e declamano il Golfo dei Poeti lo scrittore David Herbert Lawrence, la scrittrice e pittrice George Sand, il pittore svizzero Arnold Böcklin e ancora il pittore tedesco Karl Blecken, che nel 1829 si trova alla Spezia e lascia due disegni intitolati La Baia della Spezia e I Monti sul Golfo della Spezia e poi un olio su tela tramonto sulla Baia della Spezia. La scrittrice Emma Orsi, autrice della Primula Rossa, costruisce una villa a Lerici dove vive dal 1927 al 1933. Tra gli artisti italiani ricordiamo lo scrittore e scienziato Paolo Mantegazza, il pittore Oreste Carpi, i poeti Gabriele D'Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti, il giornalista Indro Montanelli, il poeta e giornalista Giovanni Giudici. Metti in versi la vita. Trascrivi fedelmente, senza tacere particolare alcuno, l'evidenza dei vivi. Ma non dimenticare che vedere non è sapere, né potere, bensì ridicolo, un altro volere essere che te. Nel sotto e nel soprammondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi, e gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre. Applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame, l'illustre. Inoltre, metti in versi che morire è possibile a tutti, più che nascere. E in ogni caso, l'essere è più del dire. Proprio Giovanni Giudici proviene dal Borgo delle Grazie, ma decide di spingersi fino all'estremità del Golfo dei Poeti, in quella casa che poi diventerà il suo ultimo rifugio. Decrepita al primo scorgerla, eccola un lindore di muri adesso, un lusso di legni e il sole, quasi non oso guastarla in parole, lei che ho voluta e avuta al maggior costo, per lei spogliato di tutto, non decrepito io, ma certo all'ultima rampa del discendere altro non ne aspetto che un lieve ricominciare. Ti ho fatta bella, gli dico, e tu fammi più vero. Ogni cuore da sé tende al suo petto, ritornante tule del pensiero. Nuovi nel nuovo dove ricambiamo bisbigli di saluti, poiché l'essere stranieri rende più riconosciuti, aspettiamo una sobria confidenza dei vecchi, essendo privilegio il non durare, che al passato dà indulgenza. Mai ebbi un abitare così librato, senza un prima e un poi, tra il verde in su del vento e il chiaro mare, abbandonati tutti i vivi morti. Oh già futuro, mite trafficare forme di questa casa, vuoto di questi corpi. Ma io non sono una persona di prepotenti desideri, insomma le cose che avrò desiderato molto nella vita non sono più di 3 o 4, inutile che le stia ad elencare. Comunque una di queste cose è questa casa dove sto adesso, in questo posto qui alla Serra, che è una frazione di Lerici, no? Ma da questa parte non si vede il golfo, no? Il cosiddetto golfo dei poeti. Golfo dei poeti non perché ci stiamo noi, non so, io, Bertolucci ogni tanto, o Paolo Bertolani, che è un poeta qui della Serra, ma soprattutto il ricordo di grandi poeti del passato, da Shelley, Byron, Lawrence, tutti inglesi, insomma. E poi anche qua vicino c'è Sarzana, dove, non dimentichiamo, sono passati dei poeti che si chiamavano Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, no? Ma questo era molto lontano, adesso è una considerazione a posteriori. Qua io sono nativo dall'altra parte del Golfo, delle Grazie, che è una frazione di Porto Venere, ma insomma volevo venire di qua, non so per quale ragione. Qualcuno mi ha suggerito, ma allora vai alla Serra, così, vabbè, vado alla Serra. Una delle altre ragioni è che io sono ancora un po' attaccato a Milano, dove ho vissuto 35 anni, e allora qui c'era l'autostrada più vicina, però non ho calcolato che col passare degli anni per me diventa sempre più problematico guidare per lunghi percorsi, quindi ci vado poco, ci vado. Un'altra città della mia vita è stata Roma, dove ho vissuto da 9 anni fino a 32 anni. E insomma, chissà che magari nell'ultimo terreno io riesca a mettere le radici, sia pure per pochi anni, in questa specie di casa estrema, ecco, un'altra casa estrema, non l'estrema dimora, no? L'estrema dimora è un'altra cosa, perché dove spero di andare più tardi. A Tellaro non ci sono strade. Per arrivare al paese esiste un'unica via di accesso che parte da Lerici e conduce fino al mare. Il borgo si trova su una rocca a picco sul mare e il suo centro è un susseguirsi di stradine strette e intrecciate, dove si affacciano casette dai colori pastello. La villa di Mario Soldati è un luogo magico ed è qui che lo scrittore e regista muore il 19 giugno 1999. Della mia famiglia concerne i primi 20 anni della mia vita. Sono 20 anni passati a Torino. Sì, andavo però d'estate, si andava sempre poi. Prima una volta si faceva in montagna e poi dopo al mare. Prima al mare in Liguria, poi al mare a Viareggio, poi di nuovo al mare in Liguria e poi alla fine, cioè quando io avevo già 15, quando entravo all'università, cioè mi ricordo che siamo tornati.